291. Arnioni saltati. Prendete una pietra, come la chiamano a Firenze, cioè un arnione o rognone di bestia grossa, oppure diversi di bestie piccole. Apritelo e digrassatelo tutto, perché quel grasso ha un odore sgradevole. Tagliatelo per traverso a fette sottili. Ponetelo in un vaso, salatelo e versate sul medesimo tanta acqua bollente che lo ricopra. Quando l'acqua sarà ghiacciata, levatelo asciutto e mettetelo in padella per farlo ributtar l'acqua, che getterete via. Spargetegli sopra un pizzico di farina, buttateci un pezzetto di burro e, rimuovendolo spesso, fatelo grillettare per soli 5 minuti. Conditelo con sale, pepe e mezzo bicchiere scarso di vino bianco. Lasciatelo ancora per poco sul fuoco. E quando siete per levarlo, aggiungete un altro pezzetto di burro, un pizzico di prezzemolo tritato e un po' di brodo se occorre. Per vostra regola, gli arnioni tenuti troppo sul fuoco induriscono. Il vino è bene farlo prima bollire a parte, perché sia scemato di un terzo. Se invece di vino bianco farete uso di marsala o di champagne, tanto meglio.